Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati cari amici radioascoltatori sulle frequenze di Blu Radio Veneto con un'ennesima puntata di Fuori di noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile, insieme con Anna Zampieri e... Cristian. Ciao Anna, come ciao, stai? Cristian, sì. Che presentazione! Ma non siamo sempre, anzi non siamo solo in due, c'è sempre la nostra terza presenza, il terzo protagonista di questa puntata, che è il nostro Edi Daici, regista di questa trasmissione, che salutiamo fin d'ora, grazie. Sì, e lo ringraziamo tanto. Al di là tanto. Del vetro è sempre lì che ci mette le musiche, che ci dice quanto tempo manca, cosa inserire, cosa togliere, grazie ancora Edi Daici. Trasmissione appunto che racconta un po' il mondo degli oratori, abbiamo raccontato in queste settimane tante belle realtà, anche il convegno mondiale qualche settimana fa della famiglia, perché avevamo... incontrato via ovviamente telefono anche una famiglia, una persona, un insegnante, Lilia, che aveva appunto ospitato anche qualche famiglia e ci ha un po' raccontato quali erano le aspettative di questo convegno e perché ancora oggi è importante parlare di famiglia e qual è, diciamo, la visione che si ha di famiglia, anche in maniera con parole semplici e con qualche riflessione appunto che loro stessi all'interno delle commissioni che si sono strutturate in diocesi hanno un po', diciamo, pensato e hanno un po' offerto a tutte le persone che hanno partecipato a questa settimana di convegni sul tema della famiglia, il Family Day 2012. Cosa hai fatto di bello questa settimana allora? Questa settimana sono andata a lavoro e niente, poi ho fatto anche una riunione per la sagra, perché appunto noi a settembre organizzeremo la sagra nella nostra parrocchia, quindi per iniziare un po' a capire insomma quali saranno, ecco, le cose da fare, ognuno si divide un po' i compiti. Sì, noi insomma, visto che aspettiamo tanta gente, speriamo di coinvolgere tante persone, ci siamo presi per tempo facendo la riunione. Cioè, già voi avete la sagra giugno. A settembre e iniziate a prepararla a giugno. Cioè, d'altronde poi l'estate fugge via, sì, per esatto. Il resto e per tante altre cose, quindi... Ma che sagra fate allora? Qual è la specialità, qual è l'iniziativa o l'attrazione più bella che della vostra sagra, allora, la sagra di Spinea? Sì, è una appunto sagra parrocchiale, quindi c'è lo stand gastronomico, allora invito tutti gli ascoltatori a venire a mangiare i nostri gnocchi che sono veramente e interamente fatti in casa, diciamo, dalle nostre signore bravissime mamme. Certo. E poi ecco, ci sono le ragazze di solito che fanno o le educatrici in acere o le animatrici al Grest, che intrattengono i bambini con una baby dance, quindi insegnando loro dance, balli di gruppo. E poi durante le serate ci sono vari eventi, quindi per esempio tribute band e così, insomma, serate danzanti, quindi un po' per accontentare un po' tutti i gusti, tutte le età, e anche la super pesca di beneficenza con Anna Zampieri, che distribuirà ovviamente i numeri fortunati a tutti coloro che si presenteranno alla cassa e diranno fuori di noi, e lei ovviamente prenderà quei biglietti e voi vincerete tante belle biciclette o addirittura anche il primo premio. Così sì. È vero? Sì, io allora, no, fino adesso a onore del vero non è che sono tanto fortunato, non vinco mai niente, però spero che la mia fortuna, cioè di poterla, che vincano gli altri, questo certo, lo auguro. Anna, non è importante che tu vinca, no, ma infatti, tu che faccia vincere, esatto, appunto, le persone, non so che arriveranno. Se sono fortunata con gli altri, però lo auguro, io mi impegnerò al massimo perché gli altri vincano. La nostra dea bendata fa di nome Anna Zampieri, okay. Molto bene. Ma noi allora, tu parlavi di una festa, di una sagra paesana, ma noi appunto stiamo proprio vivendo una festa un po' particolare, appunto perché sabato c'è la festa degli animatori del Grest, festa degli animatori che si svolgerà appunto, che si è svolta appunto annuale e presso il parco acquatico Acquestate. È una occasione per ritrovarsi tra animatori, ci sono tanti tornei, c'è un momento anche musicale, quindi un'occasione per rivedersi, magari anche per creare delle collaborazioni, perché tanti Grest stanno partendo in questa settimana e tanti Grest fanno in questo periodo anche dei piccoli gemellaggi, cioè all'interno della proposta estiva creano appunto delle visite, degli incontri tra un Grest di una parrocchia e l'altro Grest, e anche questa è una bella occasione per crescere insieme sotto lo stesso tema che quest'anno appunto l'avevamo presentato, ma ne parleremo anche nella seconda parte. Si chiama Stella, ispirato alla figura biblica di Esther. Temi principali sono la bellezza, il viaggio e il tema della vocazione, cioè noi, che senso ha appunto vivere, o meglio, qual è il nostro destino, qual è la nostra missione. Ecco che anche Stella, questo protagonista della storia di quest'anno aiuterà bambini e animati un po' a pensare e a riflettere sul domani, sul qual è appunto il destino, o meglio la chiamata che ciascuno di noi ha. Quindi non è una chiamata che ci facciamo, ma una chiamata che ci viene magari anche da fuori, da qualcuno o da dentro, una riflessione appunto e un viaggio un po' particolare, un po' speciale. Ma adesso andiamo con il primo brano musicale, perché abbiamo già occupato molto tempo con questa introduzione, con il bellissimo racconto di Anna Zampieri della sua sagra paesana. Qual è il brano che hai scelto per noi? Per tutta la vita di Noemi. Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio, trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti, ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. Ferita da me, da te, da quello che non c'è stato mai. Con questa bellissima canzone Per tutta la vita di Noemi, primo momento musicale per questa puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Ci sono dei contatti, è una trasmissione frutto anche della collaborazione con Noi Padova, Noi Venezia, Noi Treviso. Ricordiamo che Noi Associazione è una realtà a livello nazionale, un'associazione di promozione sociale che riunisce, coordina e segue più di 1300 oratori sparsi non nel Veneto, non in altre regioni, ma in tutta l'Italia, quindi dal nord al centro al sud. Specialmente qui appunto a Treviso c'è un comitato territoriale, c'è anche a Padova, c'è anche a Venezia, c'è anche a Verona, anzi la sede diciamo regionale e anche nazionale ha proprio sede a Verona. È una realtà in continuo diciamo evoluzione, perché nasce 10 anni fa, quest'anno appunto l'abbiamo ricordato più volte, festeggia il 10° anno di vita ed è un'evoluzione dell'ex ANSPI. Evoluzione perché appunto si sono diciamo in qualche maniera anche staccati, e l'associazione Noi ha creato un nuovo modo di fare oratorio. Oratorio che non vuol dire soltanto ambiente dove si può, dove i ragazzi, i bambini possono giocare, ma anche dove le famiglie possono riunirsi all'interno della parrocchia, e quindi attività mirate ai ragazzi, agli adulti e anche agli anziani, dove riescono a trovare modo, tempi e anche senso al loro diciamo tempo libero. Ma adesso andiamo a raccontare fare una bella esperienza che proprio in quest'estate sta, diciamo, ci sta perfettamente in piena sintonia, che è quella del Grest, perché dovremo avere in linea dall'abbazia Pisani, che è vicino a Villa del Conte, quindi vicino a Cittadella, ma sempre nella diocesi di Treviso, Don Daniele Giacomin. Don Daniele, ci sei? Sì, eccoci. Ciao Don Daniele. Ciao, allora, Christian, come stai? Ciao. Sempre al lavoro, sì, ovviamente. Eh beh, certo. Ecco, poi allora, questi giorni sono stati un po' intensi, sai? Certamente. Infatti noi in qualche maniera ti abbiamo contattato per raccontarci perché sono stati così intensi. Allora, avete fatto una bella proposta che ha avuto anche un ottimo successo. Raccontacela un po'. Sì, abbiamo pensato di fare, anziché i corsi pomeridiani durante il mese di maggio per gli animatori del Grest, 3 giorni di vita comunitaria, vita insieme, in quella parrocchia di Abbazia Pisani e Borghetto, che sono parrocchie molto ospitali e accoglienti, e muovendoci ovviamente in bicicletta con tutti gli animatori, coinvolgendo sia la Pieve che il Duomo che Salvarosa, ma anche quest'anno Treville e un piccolo gruppetto, 2 persone di Sant'Andrea oltre il Muson, abbiamo vissuto questa esperienza formativa. Don Daniele, iniziative. Una felice, diciamo, coincidenza. Guarda che prima di telefonarti veramente non lo sapevo, qui a fianco a me a condurre Fuori di Noi ho Anna Zampieri. E allora, Anna Zampieri della C, e prima di entrare appunto in studio mi diceva: sai dove sono andata lunedì? E gli faccio: ma sai io dove sono andato qualche giorno fa? E lui dice: no, lei mi fa, sono andata ad Abbazia Pisani, che perché stanno facendo appunto un corso, così via. E gli faccio: anch'io ci sono passato, perché abbiamo parlato un po' del Grest di quest'anno. Non ci posso credere, sai chi è ospite della puntata questa settimana? Proprio Abbazia Pisani con Don Daniele. Com'è piccolo il mondo. Don Daniele, allora avete cercato quindi di coinvolgere in questi 3 giorni di vita comunitaria, che secondo me è fondamentale, quindi anche tutte le realtà della diocesi di Treviso, come un po' l'avete organizzata, e soprattutto che risposta avete avuto? Quanti ragazzi avevate, da che parrocchie venivano? Allora, i ragazzi che sono venuti erano 120, qualcuno in più, qualcuno in meno, a seconda poi degli stage e di tutte le loro attività extra che certo si raggiungono magari in qualche momento della giornata. E, della parrocchia della Pieve, del Duomo di Salvarosa, di Treville e di Sant'Andrea oltre il Muson. Ho capito. Secondo te l'esperienza, visto, è stata nuova o l'avete, diciamo, già sperimentata negli anni scorsi? È qualcosa di nuovo per voi o tu l'hai già in qualche maniera realizzato anche gli anni passati? No, questa esperienza è nata già 3 anni fa insieme a Don Luca, quando eravamo cappellani qui a Castelfranco insieme. Certo. Da tempo la collaborazione di Castelfranco lavora insieme, e quindi insieme avevamo pensato questa esperienza diversa appunto da quelle precedenti, proprio per questa caratteristica dello stare insieme con i ragazzi, di fare una specie di campo scuola, di avere anche più tempo dedicato ai Grest dopo lo studio, dopo la scuola, e quindi anche i ragazzi sono più disponibili e accoglienti verso le proposte. Ecco, Don Daniele, so che vicino a te hai anche qualche animatore, ma prima di passarcelo, così magari sentiamo la loro opinione, la loro voce e anche le loro considerazioni. Don Daniele, questi 3 giorni sono conclusi anche con un segno, diciamo, che avete in qualche maniera celebrato in chiesa, che mi pare importante sottolineare, anche per dare magari, io dico, anche un suggerimento ai ragazzi e agli organizzatori dei Grest della nostra diocesi, per cominciare, diciamo, con il piede giusto. Come avete terminato, diciamo, questi 3 giorni? Ecco, a conclusione avevo pensato un semplicissimo mandato agli animatori. Noi siamo convinti che appunto non si fa agli animatori solo perché uno ha tempo, solo perché uno vuole, ma perché è anche il Signore che chiama, ed è bene che anche i ragazzi stessi, sebbene giovani di prima superiore, seconda, terza e quarta, si rendano conto che loro sono rappresentanti anche della parrocchia, sono a servizio anche della parrocchia, e quindi il Signore li chiama, loro rispondono, e adesso il Signore li ha inviati appunto a vivere questa avventura del Grest, non da soli, ma in compagnia del Signore. Il brano che abbiamo scelto era appunto quello del roveto ardente, Mosè che incontra Dio nel roveto e che racconta a Mosè la sua preoccupazione per Israele, la volontà di salvarlo, di liberarlo, e la promessa: io sarò con te. C'è una speranza, ultima cosa, dopo mi passi appunto qualche animatore, c'è una speranza per il vostro oratorio di Abbazia Pisani, dove c'era un po' il centro, diciamo, di questo corso, che qualche animatore del Grest possa essere non soltanto un animatore estivo, ma anche un animatore di oratorio con questo tipo di proposte? Io penso proprio di sì, la risposta è stata molto molto buona. Io e anche Don Paolo, il cappellano che c'è adesso al Duomo, siamo stati molto molto sorpresi di come si sono messi dentro e coinvolti i ragazzi, quindi non saranno solo, credo non sarà un guest solo di animazione estiva, ma sarà un guest di vera proposta e esperienza anche ecclesiale e di fede. Benissimo, Don Daniele, chi hai vicino a te allora? Passaci qualche animatore. Ti passo qualcuno allora. Benissimo, grazie. Ciao, Don Daniele, Christian. Intanto, grazie mille. Allora, adesso chi abbiamo al nostro telefono? Al telefono di fuori noi abbiamo... Sono Francesco Gomiero. Ciao, da dove sei intanto? Sono del Duomo di Castelfranco. Benissimo, cosa stai facendo adesso? State preparando che cosa? Il Grest che parte... Stiamo preparando il Grest. Che parte fra pochi giorni, fra pochi momenti. Sì. Allora, da questi tre giorni a cui tu hai partecipato, sì, in maniera molto semplice, le qualità di un buon animatore, come, cioè, quali sono secondo te, quali sono le cose più importanti che un animatore deve portarsi nello zainetto ogni giornata di Grest? Beh, sicuramente deve essere una persona responsabile. Sì. Deve essere in grado di ascoltare gli altri animatori e i ragazzi. Deve essere sicuramente in grado di saper collaborare con gli altri animatori. Deve essere molto paziente e capace di far divertire i ragazzi, sempre cercando di capire cosa vogliono, cosa pensano. Ecco, per te è un'esperienza quella del Grest, quella dell'animazione nuova? Vieni per esempio dall'Azione Cattolica, hai già fatto l'animatore del Grest negli anni passati? Dimmi. No, per me questo è il primo anno da animatore. Ho fatto per tanti anni il Grest, ma da come animato. Ho capito. Animatore è la prima volta. Dimmi una cosa, la cosa più bella che c'è in questa esperienza del Grest, quali sono le uscite, i momenti insieme, non so, qualcosa che fate di particolare che organizzate sempre all'interno? Ogni settimana andiamo in piscina. Sì. Quest'anno è il piscina di Castelfranco, o a quelle di San Pietro in Gù e sì, a Padovaland. Sì. O andiamo anche una volta al mare. Sì. Poi ci sarà l'uscita ad Osson con tutti i Grest. Sì. E alcune uscite di poche ore, magari alla mattina, qua in giro per la città. L'esperienza dei tre giorni, cosa ti porti a casa di questa esperienza? Detto in maniera molto semplice, senza magari fare grandi ragionamenti filosofici o magari anche in maniera sul tuo diario ipotetico, cosa scrivi, cosa ti porti a casa? Beh, sicuramente è stata un'esperienza importante per capire meglio cosa serve per essere animatore. Sì. Queste caratteristiche potrei portarmi a casa, sì, la responsabilità o l'ascolto verso le altre persone. Hai fatto amicizia con qualcuno? Sì, conoscevo già tante persone e sono riuscito a conoscere anche quelle poche che non conoscevo. Benissimo. Hai qualche altro animatore vicino a te che ci puoi passare, con cui continuiamo? Sì. Benissimo, sì, allora, sì. Grazie a te intanto. E buon lavoro, ciao. Buon Grest. Ciao. Chi abbiamo adesso al microfono? Sono Elena, ti trovo. Oh, ciao Elena. Allora, anche tu stai lavorando per preparare appunto il Grest della tua parrocchia. Dimmi una cosa, allora, per te è la prima volta che fai Grest o sei già navigata su questa, diciamo, esperienza? È la prima volta che faccio l'animatrice, ma ho fatto qualche volta l'animata. Ho capito. Anna ti vuole fare una domanda. Secondo te, Elena, quali possono essere le difficoltà che un animatore potrebbe incontrare in questa esperienza? Beh, molte volte magari non si riescono ad accettare tutti i bambini perché qualcuno può essere più antipatico di altri o possono essere pesanti. E tu come fai a superare questa difficoltà? Cerco di apprezzare tutti per le loro qualità invece di guardare i loro difetti. Ma Elena, quanti bambini avrai al Grest quest'anno? Quanti sono? Allora, delle elementari sono 225. Solo 225, ok. Ma poi ci sono, anzi, 225 più 130. Beh, insomma, quindi avrete 400 persone, credo, appunto, da gestire. E quanti animatori siete? Sì, ma oltre alle elementari ci sono 130 ragazzi delle medie, sì, con 122 animatori. È praticamente quasi un paese? Sì, ma siamo tre parrocchie messe insieme. Ah, ho capito. E l'esperienza, per esempio, di mettere insieme tre parrocchie è positiva? È una bella cosa? Tu come la vivi questa? Penso che sia una bella esperienza, perché comunque mette il rapporto tre modi... Cioè, nel senso... Tre realtà diverse. Esatto, tre realtà diverse. Qualcuno ti sta facendo gli scherzetti mentre stai parlando al telefono? No. Ecco. No. Allora, Elena, c'è qualche altro animatore? Sì, adesso glielo passo. Grazie, ciao Elena. Cristian, non so se hai notato che ti danno tutti del lei. L'età. Sanno che sono più vecchio. Ciao, come ti chiami? Luca. Ecco, Luca. Ho detto, parlavo appunto con Don Daniele prima e mi raccontava l'esperienza, eccetera, che abbiamo vissuto. Così. Quindi voi praticamente avete fatto una full immersion sulla figura dell'animatore. Allora, una delle domande, l'ultima domanda che posso farvi è questa. Se dovessi descrivere con un oggetto l'esperienza del Grest o appunto la realtà che state vivendo, come la descriveresti? Che oggetto sceglieresti? L'avete pensato? Come un forno. Un forno? Perché? Perché può accogliere tutti e fa diventare le cose più buone. Ah, quindi praticamente fa lievitare tutti gli ingredienti che in qualche maniera ci mettete, che siete voi alla fine, no? Lo voi sì. E i bambini che vi partecipano. Un forno dove, diciamo, appunto si può preparare un buon piatto caldo, appetitoso e saporito. Esatto. Anna, fino adesso penso che avevamo fatto la domanda a tutti, diciamo, i nostri ospiti, ma nessuno ci aveva detto che poteva somigliare a un forno, un oggetto come questo. Vedi quanto sono originali, ragazzi. Sono molto creativi. Hanno sempre una marcia in più. Allora ti chiedo l'ultima cosa: sei contento di partecipare anche quest'anno al Grest? E soprattutto, perché hai detto ancora sì, magari, a questa proposta? Intanto sono contentissimo di partecipare ancora al Grest. Bene. Perché alla fine io qui spero di divertirmi, di imparare, di sapere insegnare e dare qualcosa. Bene, oltre bene. Che a riceverla. E come mai hai scelto ancora di fare il Grest? Allora, proprio per questa passione che hai o per, diciamo, una serie anche di coincidenze fortunate, chiamiamole così? Un po' tutti e due. Bene. Però ovviamente c'è anche sempre la voglia di mettersi sempre in gioco. Bravissimo, la voglia di mettersi in gioco che un animatore deve avere sempre. Quanti anni hai? Io ne ho 17. Benissimo, allora ti salutiamo e salutiamo appunto in coro tutti gli animatori, anche Don Daniele che vi sta seguendo per preparare, per diciamo limare gli ultimi dettagli della proposta estate che inizia appunto lunedì. Quindi buon lavoro e buona Grest. Esperienza. Grazie ancora. Grazie anche a voi. Ciao a tutti, ciao. Ecco Anna, abbiamo sentito questa realtà dell'Abbazia Pisani, o meglio di Castelfranco, del Duomo, eccetera, che sta partendo con i Grest e tantissimi altri lo stanno facendo. E quindi dedichiamo a tutti i Grest, a tutti gli animatori, a tutti gli organizzatori, la canzone di David Guetta, Titanium. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. We'll be right back. E allora terminiamo questa puntata di Fuori di Noi con un suggerimento. Come diceva Steve Jobs, siate affamati, siate folli. E questo lo dedico anche a tutti gli animatori che stanno partendo appunto con il Grest. Affamati di conoscere i vostri ragazzi e di conoscerli. Folli nel senso però non di pazzi, Anna, ma di essere creativi, originali nell'incontro che dovete avere con questi ragazzi. Ultima cosa, se volete fare anche lanciare un bel messaggio, fate vedere e guardate un video che sta circolando su YouTube che si chiama Il Circo della Farfalla. Non aggiungo altro, guardatelo e mandate magari appunto un'email a fuoridinoi@libero.it e criticate o raccontateci cosa di bello avete scoperto guardando Il Circo della Farfalla. Un saluto Anna a te ovviamente, carissima. Grazie. Buona continuazione e un saluto anche alla regia di Adidaici e noi ci risentiamo sempre la prossima settimana, il sabato alle ore 14 e domenica alle 12:30. Ciao a tutti! Ciao ciao! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.